Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Today, with us, if you close the eyes, you can see our sons and our grandsons. Finally, for the first time after a lot of years, in this room, in this assembly room, very prestigious, but very rich of divisions during the single days, finally we host a place of vision and not divisions. Finally, we offer a signal of responsibility for our sons and our grandsons. Finally, we give a message of hope. A message of hope. Valeva la pena di sentire, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, tutto questo entusiasmo anglosassone del nostro presidente del Consiglio Renzi a New York, al vertice dove si è firmato questo storico accordo sul clima, e speriamo sia la volta buona. Lui diceva, per i nostri figli e i nipoti è finalmente un lume di speranza. Ci auguriamo che sia finalmente così. Ma oggi che cos'è? Venerdì, è l'ultimo giorno della settimana per quanto riguarda Effetto Notte, e quindi, come sempre, farò un bilancio della politica della settimana insieme a voi, le vostre riflessioni, con l'ospite, il commentatore politico che saluterò più tardi. Andiamo dalla tensione che si alza sempre di più tra magistratura e politica, sembra di rivivere certi tempi, naturalmente, che sono cambiati, fino ad arrivare al, diciamo, questo drappello piuttosto folto a Roma per le candidature del centrodestra. Qualcuno dice, ma Berlusconi è silente, prima o poi tira fuori un asso, qualche sorpresa, non si sa. Mancano pochissimi giorni alla scadenza per le presentazioni delle liste, capiremo che piega prenderà questa storia infinita. A questo proposito vi chiedo, proprio rispetto al caos, come si dice, del centrodestra a Roma, secondo voi questa situazione non potrebbe penalizzare il centrodestra e quindi rischiare di non farlo arrivare al ballottaggio? Si tratta di una situazione che, insomma, potrebbe penalizzare molto il centrodestra, e quindi secondo voi quale potrebbe essere la scelta giusta da fare? Deve Berlusconi rinunciare a Bertolaso e convergere su Meloni, oppure su Marchini, oppure trovare un ticket, anche se Bertolaso ha detto io i ticket li uso solo per andare sul bus? Quindi qual è la vostra riflessione? Come si dovrebbe comportare, che scelte dovrebbe fare il centrodestra a Roma per emergere, riemergere da questa confusione e sperare di arrivare quantomeno al ballottaggio? 349-238-6666 è il numero, come sempre, per i vostri messaggi, per i WhatsApp. Se no, c'è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale scrivete da ogni parte del mondo, perché effettivamente anche Effetto Notte è ascoltato da ogni latitudine. Come sempre vi riassumo però prima di tutto la giornata. La giornata mondiale della Terra, l'ONU, 171 paesi firmano l'accordo sul clima, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon parla di giorno storico, Renzi commenta finalmente una visione. Obama a Londra per festeggiare la regina, la Gran Bretagna deve restare nell'Unione Europea, dice il sindaco Johnson, lo attacca, ipocrita, dice mezzo keniano. Tensioni tra magistratura e politica, le accuse di Davigo ai politici diventano un caso. Elezioni comunali a Roma, Berlusconi conferma Bertolaso, il 29 aprile sarà presentata la lista di Forza Italia. Stati Uniti, sparatorie in Ohio, in stile esecuzione in 4 case diverse, almeno 8 morti e anche dei bambini. Nigeria, l'esercito ha bruciato 350 persone, alcune vive, la denuncia di Amnesty International su base di testimoni e immagini satellitari. Siria, l'inviato ONU delle Nazioni Unite Staffan de Mistura in un'intervista parla di 400.000 morti dall'inizio del conflitto. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la Corte respinge la richiesta della difesa di un ulteriore accertamento sul DNA, ma sì alla valutazione di alcune lettere dell'imputato a una detenuta. A giugno la sentenza, ne parleremo qui Effetto Notte stasera. Pensioni, l'INPS annuncia spedite le prime buste arancioni su tutta Italia, sono 150.000, gran parte arriverà nelle case la prossima settimana, contengono la simulazione del futuro assegno pensionistico. La morte di Prince, ancora non sono chiare le cause della sua scomparsa. E partiamo quindi dalla giornata mondiale della Terra con la storica firma a New York, l'avevate sentita annunciare anche da Renzi, quindi di questo accordo sul clima raggiunto e che era stato raggiunto a Parigi, oggi è stato ratificato a New York. Today is a day for our children and grandchildren and all generations to come. Questo è il giorno dedicato ai nostri figli, ai nostri nipoti e alle generazioni a venire. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha inaugurato a New York, al Palazzo di Vetro, la cerimonia di firma dell'accordo sul clima raggiunto lo scorso dicembre a Parigi. Un momento storico, ha sottolineato Ban Ki-moon, esortando tutti i paesi a muoversi rapidamente in modo che possa diventare operativo al più presto. Celebrata in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra, la cerimonia è stata senza precedenti per il numero di leader, 171, presenti, tra cui capi di Stato e di Governo, come il presidente francese Hollande, il vice premier cinese Zhang Haoli e il nostro premier Matteo Renzi. Today from New York City we give the message politics is able to give hope. Oggi da New York diamo il messaggio che la politica è in grado di dare speranza alle future generazioni, le parole di Matteo Renzi. Presente anche il segretario di Stato USA John Kerry, che ha firmato l'accordo con la nipotina in braccio. Siamo ad un punto di svolta, ha detto Kerry, con il più ambizioso accordo sul clima mai negoziato prima. Voi sarete applauditi dalle future generazioni o sarete condannati, le parole del premio Oscar Leonardo DiCaprio, intervenuto in veste di messaggero ONU per il clima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E già c'è Francesca che su WhatsApp scrive, a proposito dell'intervento che ho fatto sentire prima di Renzi, dice: Renzi è proprio sessista, sons and grandsons sono solo figli e nipoti maschi, oltre a non sapere pronunciare lui l'inglese. Ci sarà qualcuno nel suo staff che conosce la lingua o lo fanno apposta? Scrive Francesca. Effettivamente poteva anche dire children o altri termini in inglese che sono neutri e comprendono figlie femmine e figli maschi. Comunque, proseguendo, Obama a Londra per festeggiare la regina, restiamo nel mondo anglosassone, ma anche per incontrare il primo ministro Cameron e parlare di Brexit. Vogliamo che l'influenza della Gran Bretagna cresca anche nell'Unione Europea, ha detto il presidente americano. Speaking honestly, the United States wants a strong United Kingdom as a partner, and the United Kingdom is at its best when it's helping to lead a strong Europe. L'America vuole un Regno Unito forte e un Regno Unito ancor più forte all'interno dell'Unione Europea. Barack Obama rinnova il suo appello anti-Brexit in una conferenza stampa congiunta con il premier inglese David Cameron. Nessun giro di parole, neanche ora. L'inquilino della Casa Bianca rivendica, nonostante le polemiche degli euroscettici, il suo diritto di esprimere un'opinione, chiarendo però di non voler manipolare voti. Ma di certo peserà il suo assist offerto al premier inglese, impegnato da mesi nella battaglia referendaria a favore dell'Europa. Obama è un uomo che dà saggi consigli ed è un grande amico, dice Cameron. L'amicizia tra i due paesi non è mai stata così forte. My friend Barack say that the special relationship between our countries has never been stronger. Ma intanto nel Regno Unito infuria la polemica. Il sindaco di Londra e capofila degli euroscettici Boris Johnson, la presa di posizione di Obama non è piaciuta affatto. È tutto molto strano, perverso e ipocrita, dice Johnson, definendo Obama un mezzo keniano. It is very odd, it is perverse, it is hypocritical. Accuse razziste insorgono i laboristi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Restiamo sulle notizie dall'estero con questa sparatoria negli Stati Uniti, nell'Ohio. Si sono susseguite oggi diverse notizie. L'ultima è questa, che la sparatoria sarebbe stata compiuta come un'esecuzione in quattro diverse abitazioni lungo una stessa strada di una zona rurale nell'Ohio, provocando 7 morti. Poi notizia di poco fa invece che sarebbero 8. Tra le vittime, sottolineano ancora i media locali, anche un bimbo di 6 mesi e uno di 5 giorni. L'assassino sarebbe ancora in fuga. È una situazione in divenire, quindi naturalmente se vedo delle agenzie o delle novità poi ve le comunico qui nel corso di Effetto Notte. In Nigeria l'esercito ha bruciato 350 persone, alcune vive. La denuncia di Amnesty International su basi di testimoni e immagini satellitari. Oltre 350 persone della minoranza sciita. All'orrore si assomma altro orrore: non solo gli adulti ma anche i bambini sono rimasti vittime dei soprusi dei militari. E poi in Siria l'inviato dell'ONU delle Nazioni Unite Staffan de Mistura, in un'intervista alla TV svizzera, parla di 400.000 morti in Siria dall'inizio del conflitto, cioè 5 anni fa. E arriviamo alla politica italiana, con al centro sia le tensioni tra la politica e la magistratura, col neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Davigo, che nelle ultime ore, dopo gli attacchi di Renzi nei giorni scorsi a certa magistratura giustizialista, sta dando pesanti stoccate alla classe politica. Ne parleremo a breve, così come poi parleremo anche della situazione a Roma, la complessa situazione del centrodestra. Già arrivano i vostri messaggi. Come si dovrebbe comportare il centrodestra per sperare di arrivare almeno al ballottaggio a Roma, visto che adesso i candidati sono diversi e in ordine sparso? 349-238-6666, numero per i vostri messaggi, sms oppure WhatsApp, e poi pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto sulle pensioni, argomento molto dibattuto in questi giorni, c'è l'annuncio dell'INPS. Sono state spedite le prime buste arancioni, quindi se vedete dell'arancione nella vostra buca non è una zucca. In tutta Italia sono 150.000, gran parte arriverà nelle case la prossima settimana, contengono appunto la simulazione del possibile futuro assegno pensionistico. Per la cronaca, il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, i giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno respinto le richieste di perizia sul DNA e sull'allineamento delle telecamere di sorveglianza chieste dalla difesa di Massimo Bossetti. Il processo quindi prosegue per chiudersi probabilmente con la sentenza a giugno. Ce ne occuperemo qui a Fetonote, come vi dicevo. E poi sempre per la cronaca, è il campione di pugilato Mirko Ricci, The Predator, il sequestratore del bambino di 9 anni avvenuto 2 giorni fa a Roma. Il 25enne è stato arrestato oggi insieme con la sorella, la madre e un'amica per aver sequestrato un bimbo per riavere indietro dalla madre del piccolo una partita di droga da 5.000 euro. E poi omicidio-suicidio a Latina, i cadaveri di un 70enne e del padre di 97 anni sono stati trovati oggi pomeriggio all'interno di una villetta in periferia. Secondo le prime informazioni, la prima ricostruzione al momento privilegiata, il figlio avrebbe ucciso il padre e poi si sarebbe tolto la vita. Parliamo anche di sanità e discriminazioni. A dimostrare quanta strada ci sia ancora da fare per garantire il pieno diritto alla salute al femminile, basta un dato su tutti: le donne sono ancora le più discriminate nei reparti ospedalieri. Chi lancia questa denuncia è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi. Si basa su dati di uno studio di 15 anni fa. Dice: ma allora, da allora non è cambiato molto in Italia. Nei nostri reparti ospedalieri la mia percezione è che le donne siano ancora la categoria più discriminata. E fa l'esempio degli interventi cardiovascolari. Cioè, per esempio, in Gran Bretagna mettere un bypass al cuore, da evidenze scientifiche, dimostra questo tipo di intervento che la Gran Bretagna fa discriminazioni a seconda dell'età dei pazienti, mentre in Italia viene fatta a seconda del genere. Quindi evidentemente le donne sono meno sottoposte a questi interventi perché per i medici vale meno la pena. Questa è la denuncia di Ricciardi. E poi per la morte di Prince, la sua misteriosa scomparsa avvenuta ieri, del piccolo principe nero della musica, morto a 57 anni, non trova subito una spiegazione, anche se il sito di gossip TMZ dice che quando lo scorso 15 aprile il suo jet era stato fatto atterrare d'urgenza era perché c'era stata una overdose di farmaci antidolorifici, una specie di cosa simile a quello che era successo, pare, a Michael Jackson, ma è ancora tutto da verificare. E poi a questo punto saluto la mia cara collega Nicoletta Carbone, che conduce tutti i giorni qui a Radio 24 con Deborah Rosciani Cuore Denari. Mi complimento con lei perché ha vinto il premio giornalistico FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Leggo le motivazioni: perché con competenza e vivacità ha saputo attirare l'attenzione degli ascoltatori sui nuovi requisiti di qualità e sicurezza del sangue. Grazie Roberta, sì è vero, Cuore Denari festeggia perché oggi a Grado, nel corso del 55esimo congresso nazionale FIDAS, abbiamo ricevuto il premio FIDAS Isabella Sturvi, che è un riconoscimento nazionale proprio dedicato ai temi del volontariato e della donazione del sangue, patrocinato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Abbiamo messo anche un link alla puntata, era quella dell'8 gennaio, in cui abbiamo un po' commentato il decreto ministeriale che aggiornava i criteri di selezione del donatore. Questa è stata anche un'occasione per ricordare i nostri volontari. Il sistema non potrebbe naturalmente esistere senza i donatori del sangue, l'80% di loro sono associati e questo garantisce sicuramente una sicurezza e una qualità dalla donazione alla trasfusione. Quindi è un premio che ci lascia davvero molto contenti e noi lo condividiamo con te, con i nostri ascoltatori e con Radio 24. Grazie Nicoletta Carbone, ancora complimenti. Per chiudere il calcio, ci sarà anche una spettatrice d'eccezione, la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, ad assistere sabato 30 aprile al big match della Serie A femminile, di calcio femminile, tra Brescia e Verona. Incontro valido per la 19esima giornata di campionato, che vedrà di fronte la prima e la terza in classifica. La Camusso raccoglie in questo modo l'invito ricevuto dai vertici dell'Associazione Italiana Calcio, il sindacato dei calciatori, con l'obiettivo comune di far crescere il calcio femminile in Italia, ma anche soprattutto di garantire alle calciatrici maggiori diritti, maggiori tutele all'interno di un movimento, del movimento calcistico italiano. E con questa notizia stiamo per aggiornare Viaggia, ma prima volevo leggere alcuni dei vostri messaggi sul da farsi da parte, secondo voi, del centrodestra in mezzo a tutta questa confusione di candidati, di scontri all'interno dello schieramento. che decisione dovrebbe prendere il centrodestra per sperare a Roma di arrivare perlomeno al ballottaggio. E dice per esempio questo ascoltatore su WhatsApp, Berlusconi deve sponsorizzare Marchini. I vostri canali per intervenire qui Effetto Notte, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Poi dice Raffaele, ricordo con onore il grande ammirante, nulla da spartire con questi signori. Poi un altro dice, il Cavaliere sta trattando il ritiro di Bertolaso con Matteo Salvini, con Giorgia Meloni, con Storace, Marchini, eccetera eccetera, hashtag, insomma sì, c'è una situazione un po' confusa in effetti, e qui deve arrivare una risposta prima o poi, anche se per ora ha confermato Bertolaso. Poi un altro messaggio, il comportamento di Berlusconi è finalizzato a demolire la possibilità del centrodestra convogliando voti verso il candidato renziano, che vede come il male minore rispetto a una vittoria del Movimento 5 Stelle. Questa potrebbe essere una lettura, almeno da parte di qualcuno, poi lo chiederemo direttamente all'ospite tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Continuano i vostri messaggi ad arrivare sia alla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Ringrazio l'ascoltatore e l'ascoltatrice che mi scrive, Roberta, quando un premio anche a lei. Ma insomma, Alessandro scrive, visti i sondaggi, la domanda che vi pongo questa sera è cosa dovrebbe fare il centrodestra a questo punto, in questa confusione generale a Roma, per avere un'azione più incisiva, per cercare di arrivare almeno al ballottaggio. Alessandro dice, visti i sondaggi, che non sono l'oracolo, dice, ma comunque sono da tenere in considerazione, Berlusconi e Forza Italia dovrebbero convergere sulla Meloni. Sicuramente ai romani piace più lei che Bertolaso e Realpolitik. Cristiano, una bolgia dir poco comica, direi citofonare padre Armot oppure fare un matrimonio collettivo del quale esca alla fine un nome solo. Poi Enrico, perché c'è gente dotata di raziocinio che voterebbe oggi a destra? Beh, insomma, rispettiamo da una parte e dall'altra. Marco, viste le facce, direi che potrebbero tranquillamente estinguersi, non se ne sentirà certamente la mancanza, quindi alcuni che vanno più sull'aspetto ironico, altri invece che stanno mandando messaggi per dire quale potrebbe essere la strada giusta per un rafforzamento del centrodestra a Roma. Intanto, prima di salutare il primo ospite di questa sera, vi ricordo, se avete acceso la radio adesso, invece che puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Davigo, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, attacca i politici, dice chi delinque è peggio dei ladri. E Legnini, vicepresidente del CSM, dice rischia di alimentare in questo modo i conflitti, ma il Movimento 5 Stelle sostiene Davigo. Obama a Londra contro la Brexit, quindi la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il sindaco Johnson dice Obama è mezzo keniano. L'Eurogruppo intanto chiede una nuova austerity ad Atene, ma apre sul debito. Oggi è la giornata mondiale della Terra, all'ONU 171 paesi firmano l'accordo sul clima. Berlusconi conferma Bertolaso, scontro con Salvini Meloni, il 29 dice che Forza Italia presenterà la lista, su questo, di questo in particolare parleremo tra poco e non solo. Strage in Ohio negli Stati Uniti, un killer uccide 8 persone tra cui 2 neonati e caccia all'uomo che ha aperto il fuoco in 4 case diverse. L'omicidio di Yara e il processo no della Corte alla perizia sul DNA di Bossetti. Non è decisivo un nuovo aggiornamento. La sentenza ci sarà a giugno, ne parleremo tra poco qui Effetto Notte. Sparatoria a Napoli, 2 morti e 3 feriti nel rione Sanità, ed è ancora mistero sulla morte di Prince. Forse un'overdose di antidolorifici, come successe magari per Michael Jackson e Whitney Houston, non si sa. E quindi siamo al bilancio della politica della settimana, decisamente corposo in questi giorni. Tra i temi infatti ci sono l'esito del referendum sulle trivellazioni e le relative polemiche, la preparazione della battaglia in vista del referendum costituzionale di ottobre, il doppio voto di sfiducia nei confronti del governo, un doppio voto che non è passato, il variegato dibattito sulle pensioni, il ritorno, perché a volte ritornano, dell'alta tensione tra la magistratura e la politica, con i vari botte e risposta tra Renzi e Davigo, che ha detto cose molto pesanti sulla classe politica, lo scontro sulla riforma della legittima difesa, di cui abbiamo parlato ampiamente qui ieri sera Effetto Notte con 2 esponenti politici, le elezioni amministrative appunto che convergono soprattutto sulla infinita telenovela del centrodestra a Roma. E per tutto questo saluto e coinvolgo Stefano Cappellini, firma prestigiosa di Repubblica. Ciao Stefano. Buonasera. Stefano, allora ti farei sentire un po' di voci e poi giudichiamo, insomma, commentiamo le varie situazioni. Innanzitutto io direi, facciamo una selezione, probabilmente ne trattiamo solo alcuni di temi perché sono molto corposi e articolati. Direi andiamo subito su questo ritorno di tensione tra politica e magistratura, no? Perché Renzi, in seguito a questo doppio voto di sfiducia nei suoi confronti, che non è passato ma che c'è stato a seguito dell'inchiesta di Potenza su Tempa Rossa, si era sfogato in Parlamento dicendo che da 20 anni, insomma, si assiste a una barbarie giustizialista. Sentiamolo. Questo paese ha conosciuto figure di giudici eroi che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione, contro l'illegalità. Ma questo paese ha conosciuto anche negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Pier Camillo Davigo, da poco eletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, del Sindacato dei Magistrati, non ha fatto attendere la sua risposta. Si dice: aspettiamo le sentenze. Ma il più delle volte le sentenze verranno pronunciate sulla base di elementi che sono già noti all'inizio, per esempio il contenuto di intercettazioni, per esempio documenti sequestrati. Che cosa impedisce alla politica di fare un'autonoma valutazione? E ha ulteriormente rincalzato. Certamente ci sono tante persone che sono state dipinte dai mezzi di informazione come colpevoli quando non lo erano. In compenso c'erano persone condannate con sentenza irrevocabile che hanno fatto per 5 anni il deputato. E oggi ha detto anche altre cose, ha detto sul Corriere della Sera in un'intervista, le ha dette da Pisa, dall'Università di Pisa, dicendo che quando delinque la classe dirigente, i politici fanno ben più danni dei delinquenti comuni, no? Mi sembra che la tensione sia alta, anche se è intervenuto in serata Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha detto, insomma, non è molto opportuno in questo momento acuire questo malessere, questa tensione tra politica e magistratura. Che ne pensi, Stefano? Ma insomma, io più che di opportunità parlerei comunque di alcuni contenuti secondo me non accettabili per come li presenta Davigo. Onestamente, cioè, se Davigo si fosse limitato a bacchettare la politica per il fatto che alle volte non ha saputo prendere delle decisioni su candidature che erano, queste sì, inopportune, fin qui credo che siamo tutti d'accordo, mi pare indiscutibile. Ma una toga non può dire ci sono già all'inizio di un'inchiesta tutti gli elementi per decidere. Questo non è vero, non può essere vero in uno stato di diritto, nel senso che ci sono sicuramente inchieste dove emergono dei fatti clamorosi, alle volte persino senza rilevanza penale, che devono spingere al passo indietro, ma non si possono prendere gli elementi iniziali di un'indagine come una prova di colpevolezza futura. Questo, diciamo, in uno stato di diritto non è ammissibile, così come non è accettabile lo scenario che poi Davigo ha tratteggiato nell'intervista al Corriere della Sera, dove ha ipotizzato addirittura che per testare i politici si invino poliziotti con tangenti per verificarne l'onestà. Insomma, questo sarebbe uno stato di polizia, insomma, no? Sono metodi da inquisizione. Io credo, diciamo, che la magistratura abbia il dovere di perseguire i reati della politica e la politica ha il dovere di trarre le conseguenze anche prima delle sentenze, perché questo può essere giusto in molti casi, ma non si possono trasformare le indagini in sentenze anticipate. Questo in uno stato di diritto non è ammissibile, credo. Stefano, comunque vedo adesso un'agenzia dove c'è una precisazione di Davigo che dice: mi spiace che alle mie dichiarazioni sia stato attribuito un significato diverso da quello che hanno, non ho mai inteso riferirmi ai politici in generale, ma ai fatti di cui mi sono occupato e a quelli che successivamente ho appreso essere stati commessi. Così dice: non ho mai pensato che tutti i politici rubino, anche perché ho più volte precisato che se così fosse non avrebbe senso fare processi che servono proprio a distinguere. Questa è la precisazione, insomma, che è arrivata. Senti, Stefano, invece ci soffermiamo brevemente sull'esito del referendum delle trivellazioni domenica scorsa, dove ha vinto l'astensione, e ti porrei solo una questione con una risposta più o meno secca, se puoi. Allora, quei quasi 16 milioni di persone che sono andate a votare, no? Di cui 13 milioni e qualcosa hanno votato sì, per qualcuno costituiscono un possibile, diciamo così, esercito pronto a dare battaglia anche per il referendum di ottobre, oppure sono semplicemente persone che hanno ritenuto che fosse nel loro diritto dovere andare a occuparsi di questa vicenda e quindi esprimere la propria opinione, il proprio giudizio, la propria volontà. Che dici? No, dico che mi sembra un'assoluta forzatura, per non dire di peggio, l'idea di presentare questi milioni di persone che hanno scelto di votare come un esercito antirenziano pronto, sta armando le baionette in vista del referendum costituzionale di ottobre. Questa mi sembra, insomma, una propaganda francamente anche un po' rozza. Penso invece che quel referendum lascerà degli strascichi politici, questo sì, soprattutto perché c'è stato uno scontro a sinistra in particolare, che potrebbe anche pesare sulle amministrative di giugno, secondo me molto più che sul referendum costituzionale, dove gli elettori, sicuramente anche quelli che hanno votato al referendum, prenderanno ciascuno la propria strada su un quesito completamente diverso. Invece, spostiamoci, Stefano Cappellini, sulla questione della legittima difesa, la riforma della legittima difesa, cioè dell'articolo 52 del codice penale, no? Relativamente ai recenti casi di cronaca, diciamo, l'opinione pubblica è molto sensibilizzata giustamente su questo argomento, e c'è una proposta di legge in Parlamento, proposta fatta dalla Lega circa un anno fa, anche più di un anno fa, però ieri, per disaccordi all'interno della maggioranza tra PD e Nuovo Centrodestra, alla fine è stata rinviata di nuovo in commissione giustizia. Allora ti farei sentire, ieri sono stati qui abbastanza ampiamente due esponenti politici, uno è Verini del PD e l'altro è Molteni della Lega. Sentiamo prima Molteni. La proposta di legge che noi abbiamo presentato circa un anno fa e che è stata incardinata in Commissione Giustizia a novembre del 2015, quindi circa sei mesi fa, prevede che la legittima difesa possa diventare effettiva, reale, che vi sia la possibilità da parte del cittadino che vive serenamente e tranquillamente all'interno della propria abitazione, nel momento in cui viene aggredito all'interno, ripeto, dell'abitazione, la possibilità di potersi difendere, di poter esercitare il diritto di reagire, di potersi difendere senza incappare nelle maglie della giustizia, quindi senza dover giustificare il motivo per cui lui, presente all'interno della propria abitazione, si sia difeso da chi è entrato, chi non ne aveva diritto, all'interno della propria casa. Quindi questo è un passaggio della chiacchierata di ieri con Molteni. Sentiamo Verini, un altro passaggio altrettanto breve. Se si vuole intendere che un cittadino che si trova nella propria abitazione e che viene di notte, di giorno, sorpreso, aggredito da dei ladri, e lui percepisce un pericolo, magari anche esagerando nella portata, non è in grado di valutare se quel ladro è armato o no, magari se si sveglia di soprassalto. Se questo cittadino che vede uno davanti gli prende giustamente la paura e reagisce, beh, quella per noi è legittima difesa. Dopodiché, se invece si vuole intendere legittima difesa il fatto che un ladro penetra in un giardino e poi viene visto e allora si mette a fuggire e uno dalla finestra gli spara alle spalle, beh, quella non è legittima difesa, quella è violare clamorosamente la proporzione tra la minaccia e la reazione. Insomma, Stefano Cappellini, il problema è capire quali sono i limiti, però sicuramente una riforma della legittima difesa va fatta, no? E sperando anche che ci siano tempi brevi. Non lo so, io ti dico la verità, non ne sono così convinto. I tempi brevi o della necessità di una riforma? No, della necessità, nel senso che molto spesso, diciamo, c'è questa tendenza a pensare che ci sia sempre bisogno di nuove leggi. Io onestamente penso che esista già, diciamo, un principio di legittima difesa. Ovviamente è legittimo valutare, diciamo, se possono essere spostati i confini nell'esercizio di questa legittima difesa. Però non è che siamo in un vuoto, non è che c'è un vuoto legislativo. Insomma, oggi i giudici, gli inquirenti hanno già tutti gli strumenti per valutare, appunto, la proporzionalità tra l'offesa e la difesa, che credo debba rimanere un principio saldo, perché l'ipotesi, diciamo, del fuoco libero di fronte, diciamo, a qualsiasi genere, in questo mi sembra Verini dicesse le cose sensate, di fronte a qualsiasi genere di intrusione, mi pare che possa portare verso una situazione non meno pericolosa di quella che già esiste, perché ovviamente è un problema quello delle aggressioni in casa, dei furti, ed è un problema giustamente sentito dai cittadini. Mi pare che sia sbagliato parlarne come se non esistessero delle leggi. Il problema forse è che spesso c'è un'impunità, nel senso che proprio in questi giorni sono usciti dei dati sul fatto che i furti in casa sono in assoluto forse il reato con meno colpevoli scovati e puniti. E questo è oggettivamente un problema, forse un po' più che la riforma della legittima difesa, che, ripeto, è un principio che già esiste, che può essere già applicato in tutte le sue varie articolazioni dai giudici. Ho l'impressione che la tendenza a legiferare sempre sulla scorta di così emergenze presentate che scoppiano così ogni volta puntualmente a ondate, poi ce ne si dimentica e magari se ne torna a parlare dopo anni, è un po' un vizio che in questo caso si carica anche di un eccesso ideologico, perché appunto, ripeto, il rischio è di andare verso una legislazione che possa essere non meno pericolosa. Sai, il far west libero in casa è un rischio, nel senso che... No, è chiaro, va trovato l'idea, un equilibrio. Parliamoci chiaro, l'idea anche che i ladri, diciamo, sappiano nel momento in cui violano un domicilio di trovare qualcuno armato che può sparare, può innescare già di per sé una spirale di violenza molto peggiore rispetto alla situazione attuale. Forse è uno scenario sul quale riflettere. Stefano, abbiamo ancora pochissimo tempo, quindi non ti farò sentire tutte le voci di Meloni, Raggi, Salvini, Bertolaso, eccetera, però... E te ne sono grato. Grazie, però sappiamo che regna per il momento la confusione, anche se qualcuno dietrologicamente legge queste ipotesi. Per esempio, un ascoltatore scrive: il comportamento di Berlusconi è finalizzato a demolire la possibilità del centrodestra convogliando voti verso il candidato renziano, che vede come il male minore rispetto a una vittoria dei 5 Stelle. Poi un altro scrive: fondamentalmente nessuno del centrodestra vuole veramente vincere a Roma con la situazione attuale. Poi Enrico dice: il centrodestra odia le primarie ma usa le elezioni vere come fossero primarie, chi avrà più voti governerà il centrodestra, ma così Roma lo governeranno o la Raggi o Giachetti. Può essere una lettura questa, che alla fine stanno approntando anche magari senza volerlo delle primarie, perché quanti candidati ci sono? 4, mi pare di capire, tra Bertolaso, Meloni, Marchini e Storace? Sì, volendo considerare anche Marchini candidato di centrodestra, sì, insomma, mi pare che comunque non ci siano dubbi sul fatto che il candidato meglio attrezzato sia Meloni. Questo mi sembra oggettivo, al di là di quello che dicono i sondaggi, che sono sicuramente molto fallaci, secondo me su Roma ancora di più del solito. Ma secondo te quindi cosa dovrebbe fare Berlusconi, insomma, Forza Italia? Rischia l'isolamento, oppure qualcuno dice sta zitto e silente perché sta riflettendo e ha intenzione di tirare fuori qualche sorpresa? Mi pare adesso, al netto di dietrologie, ce ne sono molte sul voto di Roma, le hai citate anche tu poco fa. Io non lo so quanto possono essere vere, non so se qualcuno lo sappia. Credo che la situazione, detta diciamo in termini molto netti e rapidi, sia che Meloni è sicuramente il candidato con più chance di vittoria, quindi Berlusconi deve decidere se convergere sul candidato che oggettivamente, e questo lui lo sa, ha più possibilità di concorrere per la vittoria, oppure diciamo tenere fermo il punto sulla sua leadership, perché è chiaro che comunque fare un passo indietro dalla candidatura di Bertolaso significa per Berlusconi abdicare e accettare che siano Meloni e Salvini a imporgli il candidato sindaco di Roma. Deve scegliere tra questi due scenari. Al momento sembra che gli interessi meno vincere Roma e gli interessi di più riaffermare la propria scelta e quindi la propria primazia. Vedremo, ci sono ancora un po' di ore prima che questa vicenda si chiuda ufficialmente, non si possono ancora escludere altri colpi di scena e aspettiamo. Però, insomma, lo scenario mi pare questo. Grazie Stefano Cappellini di Repubblica, ciao Stefano, grazie a voi. Ciao. Ancora i vostri messaggi continuano ad arrivare, per esempio questo di Giuseppe da Roma: qui tra centrodestra e sinistra siamo allo sfascio, pensioni da fame e altro. Poi un altro messaggio: Meloni e Salvini hanno tradito l'accordo fatto con Berlusconi e loro la colpa del casino al centrodestra. Avanti Bertolaso, mi auguro che Berlusconi continui su questo binario senza cedimenti. Noi proseguiamo naturalmente qui a Effetto Note, una piccola pausa di ricreazione e poi invece andiamo sulle novità che riguardano il processo relativo all'omicidio di Yara Gambirasio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché siete in tanti, a qualsiasi latitudine. E adesso passeremo a un altro argomento. Abbiamo parlato ampiamente di politica, dei tanti temi di questa settimana e anche delle ultime ore. Parleremo adesso invece delle novità che riguardano il processo per il delitto di Yara Gambirasio. Ancora però i vostri messaggi sulla confusione ancora del centrodestra, almeno così a vedersi dall'alto, diciamo, con i vari candidati e quindi anche spaccatura all'interno di Forza Italia di chi dice a Berlusconi vai avanti pure con Bertolaso e chi dice no, devi convergere assolutamente sulla Meloni. Secondo voi che cosa, quale sarebbe la direzione giusta? Scrive Elena tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666 che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Elena scrive: ma come possiamo dare noi consigli a Berlusconi? A me sembra un gran pasticcio da cui Berlusconi sta pensando di uscire. Difficilmente che si associ a Meloni dov'è Salvini a voler fare la parte del leader. Comunque posso dire che la cosa non mi appassiona. Sandro: se fossimo dotati di raziocinio il PD sarebbe al 3%, il centrodestra scomparso, manca poco, dice, in quanto ai danni è una bella gara tra centrodestra e PD. Mimmo: non riesco a capire come i fautori del fallimento politico dell'Italia, che sono la destra e la sinistra o la sinistra e poi la destra, poco cambia, come potrebbero cambiare le cose? È impossibile che chi ha creato i problemi possa anche risolverli. Emilio Landi scrive: bisogna cercare di non pensare sempre all'io personale e lavorare per il popolo romano. Alessandro: mi sembra palese che non puntano al centrodestra ad avere un sindaco a Roma, meglio stare a sparare addosso a chi avrà la sfortuna di governare la capitale. Scommettiamo che alle nazionali torneranno alleati per non rimanere fuori dal Parlamento a causa dell'Italicum, scrive Alessandro. Adesso però vi ricordo velocemente le notizie più importanti e poi passiamo al prossimo tema. Oggi è la giornata mondiale della Terra, l'ONU 171 paesi firmano l'accordo sul clima, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon parla di giorno storico, Renzi commenta finalmente una visione, Obama a Londra per festeggiare la regina, la Gran Bretagna dice deve restare nell'Unione Europea, il sindaco Johnson lo attacca, è ipocrita e mezzo keniano, dice. Tensioni tra magistratura e politica, le accuse di Davigo ai politici diventano un caso, elezioni comunali a Roma, Berlusconi conferma Bertolaso, il 29 aprile sarà presentata la lista di Forza Italia. Stati Uniti, sparatoria in Ohio in stile esecuzione in 4 case diverse, almeno 8 i morti, anche dei bambini. Nigeria, l'esercito ha bruciato 350 persone, alcune vive, questa è la denuncia di Amnesty International sulla base di testimonianze e immagini satellitari. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, parleremo tra pochissimo delle novità, e poi sulla morte di Prince invece non ci sono grosse novità, ancora non si chiariscono le cause. Saluto Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo sul processo relativo all'omicidio di Yara Gambirasio, ve lo ricordo, la 13enne di Brembate, vicino Bergamo, che il 26 novembre 2010 fu seviziata e uccisa e poi ritrovata 3 mesi dopo in un campo incolto a 20 minuti da casa. Per questo delitto l'unico indagato è Massimo Bossetti, carpentiere di Mapello, sempre vicino Bergamo. Oggi cosa è successo? Che i giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno respinto tutte le richieste di nuove perizie, soprattutto appunto quelle richieste sul DNA da parte della difesa. Invece sono state ammesse le lettere che l'imputato si è scambiato con una detenuta. Ma adesso fa ordine per noi Vittorio Attanà e ci spiega un po' quali sono queste novità, Vittorio. Sì, oggi è stata un'udienza decisiva perché per un motivo sostanzialmente, per il fatto che la Corte ha negato ogni ulteriore accertamento in materia genetica, quindi sul DNA vale quello che si è fatto finora e non ci saranno nuove perizie come invece chiedeva la difesa. Perché sarebbero superflue, mi pare che abbiano detto i PM, i giudici, scusami, però la difesa insiste da un po' di tempo sul DNA mitocondrale, lo pronunci meglio sì, tu, che non quello nucleare, quello nucleare è quello più importante, no? Però dice sull'altro ci sono delle anomalie, invece i giudici evidentemente hanno ritenuto che non fosse così? Sì, evidentemente questo lo deduciamo noi perché negando una ulteriore perizia evidentemente ritengono il problema superato o comunque non superabile attraverso un accertamento. Comunque la questione del DNA mitocondriale è in questi termini, bisogna fare un passo indietro. La ricerca, o meglio, in ambito forense il DNA che serve per condannare qualcuno, eventualmente per identificare comunque in maniera inequivocabile una persona, è il DNA nucleare. Il DNA mitocondriale entra in questa indagine per un semplice fatto. Gli inquirenti a un certo punto sapevano che ignoto uno, ovvero il proprietario del DNA trovato sul corpo di Yara, era figlio illegittimo di questo autista morto nel 1999, quindi sappiamo benissimo tutta la ricerca incredibile che è stata fatta. Sì. Esatto, occorreva, siccome non si trovava il proprietario di questo DNA ignoto 1, la persona a cui corrispondeva questo DNA, e bisognava trovare la madre per avere un tassello in più in questa indagine. Allora, poiché il DNA mitocondriale è una componente di DNA che si trasmette per linea materna, gli inquirenti a un certo punto, non sapendo dove andare a sbattere la testa, per farla semplice, si sono messi a cercare in mezzo alle donne bergamasche chi potesse condividere il DNA mitocondriale con quello, con le tracce trovate sul corpo di Yala. Non hanno trovato assolutamente nessuna corrispondenza. Oltretutto qui si inserisce anche la mala sorte, perché di fatto questo DNA mitocondriale non c'è, non è stato isolato sugli indumenti della vittima. Questo perché? Secondo la difesa di Bossetti, perché c'è stato un errore, perché è impossibile in natura avere un DNA nucleare e non avere il suo DNA mitocondriale. E invece, secondo i consulenti dell'accusa e anche della parte civile, il problema è relativo al fatto che la traccia su cui si è lavorato è sostanzialmente una traccia mista, cioè che porta il contributo sia di ignoto 1, quindi del presunto assassino, sia della vittima, e questo potrebbe aver comportato una sovrapposizione che rende difficile il reperimento di questo DNA mitocondriale. Però per i giudici per il momento quindi sono a posto così rispetto alle prove che hanno. Sì, anche perché comunque l'unico DNA identificativo è quello nucleare, cioè il processo si può fare utilizzando quello, non il mitocondriale. Vittorio, dici un'ultima cosa, abbiamo ancora un minuto invece su questa questione delle lettere che Bossetti avrebbe scritto a una detenuta e di contenuto pare scabroso, ma non... Sì, il contenuto conferma, è scabroso. Il PM, il pubblico ministero Letizia Ruggeri, ha chiesto che venissero acquisite agli atti del processo, non per voyeurismo, ha detto il magistrato, ma perché in queste lettere, che di fatto sono anche espressioni di affetto che poi trascendono nell'erotismo e anche in dettagli direi anche pornografici, chiaro ed esplicito, non per voyeurismo, ma perché in queste allusioni sessuali che Bossetti fa a questa detenuta di nome Gina ricorrerebbero elementi dello stesso tipo di quelli che sono stati scoperti nelle ricerche sui computer sul suo di casa Bossetti. Questo dimostrerebbe, secondo l'accusa, che era proprio Bossetti a fare determinate ricerche e non la moglie. Come si dice. Esatto. Senti Vittorio, adesso ci dobbiamo lasciare, però mi pare di aver capito che la sentenza a questo punto ci sarà a metà giugno più o meno, no? Per chiudere sì, questo processo di se primo verrà grado. Rispettato il calendario, sì, perché la prossima udienza è il 13 maggio, toccherà al pubblico ministero a chiedere la richiesta di condanna. Beh. Poi toccherà alle difese, le arringhe si pronunciano molto corpose, sicuramente chiederanno l'assoluzione argomentando molto diffusamente. E poi si arriverà quindi più o meno a metà giugno per la sentenza. Ci risentiamo allora, grazie Vittorio Tanà dell'Eco di Bergamo. Ciao Vittorio. Grazie a voi, buonasera. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo brevemente, tra le più importanti, la giornata mondiale della Terra. Oggi è all'ONU, 171 paesi hanno firmato l'accordo sul clima. Obama a Londra per festeggiare la regina, ma anche ha parlato di Brexit. Tensione in Italia tra magistratura e politica, le accuse di Davigo e i politici diventano un caso. Elezioni comunali a Roma, Berlusconi conferma Bertolaso. E poi il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ne abbiamo appena parlato, la Corte respinge la richiesta della difesa di un ulteriore accertamento sul DNA. Europa 24 notte. Torniamo a Lesbo una settimana dopo la storica visita, vi ricordate, di Papa Francesco in quell'isola greca che è stata per quasi un anno una delle principali porte d'ingresso in Europa per migliaia di profughi. Ora, dopo l'approvazione del piano tra Bruxelles e Ankara, gli sbarchi sono un po' calati, i migranti tuttora presenti sull'isola vedono un destino incerto davanti a loro, e ce lo racconta Raffaella Calandra, che è stata per giorni in campi profughi di Lesbo. Ciao Raffaella. Sì Roberta, ciao. Sì, siamo andati a vedere proprio sul campo l'applicazione di questo piano Europa-Turchia, che prevede tra l'altro i respingimenti fuori dai confini comunitari dei migranti, con lo stesso tipo di accordo che ora l'Italia vorrebbe estendere anche alla Libia, ma che invece non ha convinto nel vertice di ieri. Ebbene, visto dai campi dell'isola, il piano dobbiamo dire che spaventa chi è arrivato dopo il 20 marzo, data di entrata in vigore dello stesso accordo, e chi ora si ritrova, diciamo, sospeso sospeso tra il sogno di andare in Germania e il timore di ritornare al punto di partenza quasi. Dopo le prime espulsioni il 4 aprile, ora si stanno valutando tutte le domande d'asilo presentate, bisogna cioè valutare per ciascuna persona se ci possano essere le condizioni per vivere in Turchia, e le prime risposte arrivate proprio in questi giorni, dopo giorni di stop, sono state negative anche per dei siriani. Anche dunque chi scappa da una guerra può essere portato fuori dai confini comunitari, ed è l'incertezza, la mancanza di informazioni e l'attesa che accomuna tutti i 3.000 migranti tuttora ospiti dei campi di Lesbo, come alcuni pakistani assistiti dall'avvocato Emmanuel Kazikalkias, che ci spiega l'iter davanti al recinto del contestato Moria Camp, dove è stato anche il Papa sabato scorso. Sentiamolo. Now they are waiting because they have made already application for asylum. Loro stanno aspettando perché hanno fatto domanda di asilo, quindi aspettando il primo passaggio, che è l'intervista. Se non passano, possono fare appello. E poi, in caso di nuova bocciatura, un altro appello. Sono tre i passaggi in base alla legge greca approvata dal Parlamento. La maggior parte delle persone rinchiuse qui hanno chiesto asilo e non possono essere riportati in Turchia prima che la loro domanda non venga esaminata. La settimana scorsa ho saputo che ci sono colloqui già programmati fino alla fine di maggio, ma ora, in base alla nuova legge, ci dovrebbe essere un canale più veloce e tutto dovrebbe durare una settimana. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo invece di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Mi sa che non ha delle ottime notizie per chi fa il ponte. Questa volta mica tanto. Buonasera Roberto, buonasera Paolo. A tutti. Sarà un ponte molto variabile e instabile, però sai, cambierà a seconda di dove uno andrà. Perché ad esempio all'estremo sud le giornate di sabato e domenica non saranno malvagie, lì magari sarà lunedì più variabile. Per esempio in Sicilia, appunto sabato e domenica quasi da fare il bagno. Invece per il centro-nord, al contrario, sabato e domenica due giornate molto variabili con anche delle piogge, domenica dei temporali, e inoltre segnaliamo anche un calo delle temperature. Insomma, la sfortuna è che, per quanto tutto questo sia normale in primavera, arriva proprio nel weekend. Certo, tanto così diciamo, no? per non dare fastidio. Grazie Paolo Corazzoni, in ogni caso buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Io vi ricordo tra l'altro che lunedì sono qui per voi a raccontarvi la giornata. Ci risentiamo comunque alle 22.